Il modo in cui sorgono i bdud dei godimenti. I bdud comuni e quelli superiori sorgono nella mente che compie l'errore di creare queste categorie. Se non si viene disturbate dagli spiriti malefici che vivono nei luoghi orridi, nasce in se stesse autocompiacimento. Questo è il bdud dei godimenti. Quando appaiono i segni del potere spirituale, sorgono i bdud dei meriti, delle ricchezze materiali, delle distrazioni, i bdud della gloria, della fama, della felicità, degli amici e dei nemici, le divinità e gli spiriti che conferiscono le loro siddhi, i figli, gli amanti, gli amici che danno gioia, sono i bdud dei godimenti. Qualsiasi virtù sorga con mente priva di dualismo tra soggetto e oggetto, non si cerchi di afferrarla. Si agisca senza alcun attaccamento alla natura delle virtù, considerandole come gli oggetti dei sogni, come la bellezza fisica che in una bella donna è ornamento spontaneo. In colui, colei che agisce in questo modo, non vi è causa per autocompiacimento. Se questo nasce, si è corrotte dall'errore di credere in queste categorie. Che questo supremo comportamento di non attaccamento raggiunga il cuore di coloro che possono capire. I bdud superiori sono di due specie. Si insegna che si dividono in due categorie, quelli del sentiero spirituale e quelli del frutto. Orgoglio a causa di una teoria che va oltre l'attività, orgoglio nel meditare sull'equanimità. Orgoglio nell'agire senza concettualizzazioni, orgoglio nella via della pratica ascetica. Se in qualche modo si agisce così, non si sta percorrendo il sentiero spirituale, è opera dei bdud. Essendo la teoria e la meditazione indicate da semplici simboli, non si creino nella mente concetti fissi. Senza ostruzioni qualsiasi cosa sorge. Non si rimanga coinvolti nei pensieri di varie opinioni, ma si entri nella condizione priva di direzioni che sorge equanimamente. Non avere alcuna teoria è il supremo Giciod.